ritorna il vento, vento, ladro di un tempo che soffiando un po' più forte spazzasti via tutto in un attimo. May the winds blow till they ever waken us. May the winds blow till they ever waken us. Vento di un'ora vaga della notte che agita fruscianti ombre di alberi e un cielo di nubi imbiancate da una luna lontana, lontana, lontana. Mi venisse in mente di volare questa notte, basterebbe non guardare in basso e sentirsi leggeri, leggeri, leggeri. Vento, lo sento, il vento dentro, figlio di un cane che abbaiando dentro il cuore mi tormenta e non mi fa dormire mai. May the winds blow till they ever waken us. May the winds blow till they ever waken us. Vento cinebria di profumi strani, abbaiando un cane da lontano contro il vento, richiama frammenti di eterno e mi sento più solo, più solo, più solo. Forse dovrei arrendermi e disperdermi nel vento piuttosto che farmi spezzare ogni volta che soffia, che soffia, che soffia.